Allora, 18 e 34 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa e come ogni venerdì pomeriggio a quest'ora all'ascolto della oretta di teologia estrema delle ore di religione. Allora, dopo che ci siamo occupati la settimana scorsa, soprattutto, ma non solo, della vicenda dell'abbandono di Lucetta Scaraffia dall'Osservatore Romano, dove dirigeva il femminile dell'Osservatore Romano, sostanzialmente lei e tutta la redazione. Abbiamo spiegato un po' i motivi e raccontato anche le vicende che c'erano dietro il suo arrivo all'Osservatore Romano e dietro anche il suo abbandono. Ritorniamo qui oggi a parlare di relazioni fra politica e religione, fra governo e Vaticano. Lo facciamo fra l'altro nel primo venerdì successivo al famigerato convegno veronese, di cui abbiamo parlato tantissimo, stiamo continuando a parlare. Stamane abbiamo mandato alcuni interventi, diciamo, del controvertice, si sarebbe detto qualche tempo fa. E allora, come è andato questo Family Congress? Tutto sommato non benissimo, forse, perché si evince questo da tutta una serie di prese di posizione e di allontanamenti nei confronti di questo congresso da parte di esponenti sia della destra politica sia anche dello stesso Vaticano. Insomma, io l'ho fatto un po' di lo dicevamo proprio dal primo, da quello più importante, ecco. E io ho fatto un po' di rassegna stampa successiva a Verona e anche di stampa cattolica, insomma, e la posizione era, intanto se ne parlava molto all'interno delle pagine dei quotidiani, e poi la posizione principale sembrava essere: sì, va bene parlare di questi temi, ma non così, non in maniera così estrema, non va bene, insomma, troppo rumore. E poi le prese di posizione degli stessi esponenti politici, Zaia in primis, presidente della Regione Veneto, che ha sponsorizzato peraltro in anticipo il congresso, per poi dire il giorno prima: cioè, vabbè, ma questa è una cosa che non mi piace, ci vado, ma ci vorrei non andare. Insomma, molto, molto italiano questo, e come lui altri. Che governo. Sì, penso mi sono state. C'era questo logo che non è stato cancellato perché non avevi i soldi per rifare i cartellini. Sì. Sempre molto italiano. Assolutamente. E dietro, chiaramente, anche le frizioni interne al governo, che poi magari con la famiglia manco c'hanno troppo a che fare, però poi trovano lì un punto di sfogo. E insomma, questo è un po' il panorama generale, sì, ecco. Allora, visto che tu hai detto benissimo tutto, o possiamo entrare magari nel merito l'interpretazione un po' profonda, no, di queste cose che hai detto, sì. Delle tensioni, dei conflitti. Prima di tutto, anche perché, scusami, sì, era un congresso non esclusivamente cattolico. Esatto. Hanno chiamato esponenti, diciamo, del peggiore integralismo religioso o mondiale, ecco. Per cui, da questo punto di vista, anzi, hanno avuto una carica ecumenica. Ci sono nei nomi, ci sono personaggi provenienti dall'est e quindi comunque di tradizione ortodossa, per esempio, no? Sì. Di cristianità. Poi, appunto, i fondamentalisti cosiddetti, insomma, del cristianesimo riformato nordamericano. E c'è anche una varie declinazioni più folli, perché lì c'è un po' di tutto, no? Certo. Sono migliaia le derivazioni, ne sono state censite 5.000 negli Stati Uniti, ma questo perché se voi avete quattro roulotte in mezzo al deserto, vi riunite e fate una comunità che diciamo i cristiani della valle della morte sud, e quella è una comunità religiosa, certo. Perché, diciamo, piano piano poi se la cosa rispetta le regole minime, diciamo, del modo con cui è consentito agli Stati Uniti aggregarsi all'interno del contesto cristiano, è possibile, perché non c'è un'autorità che ti dice non lo puoi fare e non ti puoi nominare se c'hai un seguito come così mistico, finché non hai ovviamente non fai sacrifici umani, sì, appunto, la soglia del diritto penale, insomma, delle leggi penali. Poi lì non, diciamo, il diritto è diverso perché non ci sono i codici veri e propri come da noi che vengono, ma c'è tutta una giurisprudenza di cui però chiaramente si fa riferimento, appunto, che non puoi fare sacrifici umani e cose di questo genere, oppure Manson, insomma, certo. di cui già Waco la puoi fare, ecco, esatto, per dire, insomma. Waco, in realtà, come si vede dal documentario, no, documentario, scusate, dalla serie, che però è una serie, diciamo, è una fiction, quasi, sì, esatto, sì, cioè, non è un tutti attori molto molto bravi, e dove si vede che effettivamente, insomma, loro adesso, ripeto, con tutta la distanza che uno può avere su un piano generale del discorso religioso, però quelli dentro Waco avevano comunque una differenza enorme, ovviamente, con, ecco, per esempio, il modello così mansoniano, no, delirante, certo, che poi peraltro era, diciamo, pseudo satanista, ma anche lì adesso uscirà questo film che a margine parlerà di Tarantino. Di Tarantino, sì, insomma, in uscita. No, non siamo dei fan, ecco, questo lo diciamo, io in senso sto usando un plurale, maiestate. Però, no, io mi associo, ecco, esatto. Quindi anche non maiestate. Esatto, non siamo dei fan del suo cinema, né disprezzatori gratuiti, diciamo, c'è una certa distanza critica, ci possono essere delle cose a volte divertenti, ma complessivamente non è proprio il top, diciamo, per tanti motivi. Ma è curioso, e l'abbiamo citato perché appunto è un po' fuori dalle sue corde, perché qui è più dentro la realtà storica di quegli anni lì, siamo appunto alla fine degli anni 60, primi 70, intorno all'evento. Poi fra l'altro un'esperienza che nasce dal movimento hippie, sì, tutto sì, che è la cosa, sì, abbastanza... Il movimento hippie è un po' come qui in Europa, ma in particolare in Italia, uso il termine il più largo, gli anarchici, che essendo appunto molto così liberi e veramente libertari, sono quelli che hanno poi anche avuto all'interno così derive, infiltrazioni, perché lasciando tutti liberi c'è pure quello che chiaramente se ne va per la tangente, che parte da un percorso sicuramente di libertario, quindi anche di liberazione hippie, che è un po' meno politica nel senso inteso occidentale, vecchio continente, ma sempre comunque con delle basi abbastanza di rigetto comunque del modello culturale, parlo degli hippie americani, certo, del modello culturale, il consumismo, il rapporto con la natura, e quindi c'è un elemento politico, e poi l'elemento anarchico sempre in senso lato, liberale, libertario, negli Stati Uniti c'è, perché c'è una parte dell'impronta della loro costituzione che è molto, diciamo, appunto liberale, tanto da aver sviluppato peraltro anche dall'altro lato, quasi a danzosi le spalle, no? Cioè gli anarcocapitalisti, certo, che sono anarchici, però, come dire, vedono la distruzione dello Stato nel mercato, che è comunque affascinante, sì, come, sì, come teoria. Fra l'altro è tutta la famiglia Friedman, perché c'è il nipote di Milton Friedman che critica aspramente il nonno, esatto, dicendogli che era uno sporco statalista, esatto, e repressore, soprattutto, perché comunque pongono certamente il tema della libertà, però ecco, qui potremmo dire che nonostante ci sia una distanza siderale per mille motivi, sia storici, culturali, però, come dire, il nocciolo però è quello, è Stirner, cioè l'elemento, certo, fortemente individualista, però ecco, lungi da interpretare il povero Stirner, che comunque si muove in un'altra epoca, che aveva una, diciamo, una visione forse appunto anche lui complessa, però è comunque molto centrata sull'individuo, in questo senso sulla mente personale, userei questi, visto che oggi siamo ormai un presente di neuroscienze, possiamo rileggere anche questo, sì, alla senza luce, nulla togliere a tutto ciò che è stato detto, aggiungendo che un elemento che può spiegare a volte il calarsi dentro, come dire, un se stesso, che però non è onanistico, egoistico, vorrei dire, quello parlo di Stirneriano, ma di riflessione ampia proprio sull'individuo. Del resto il conflitto società-individuo non è un'invenzione, no, contemporanea, ma è molto... Neanche di Stirner, diciamo, da qualche tempo prima. No, certo, io lo consideravo un puro contemporaneo dal punto di vista antropologico, Stirner. Da questo punto di vista è uno nato l'altra settimana. Sì. È invece un tema molto molto lontano. Dovere, essere, voler essere, un'altra, diciamo, delle grandi distinzioni, direi, aristoteliche, insomma, che stanno lì. Quindi voglio dire, vedete che c'è molto da riflettere su questo. Quindi la dimensione libertaria della cultura hippie può produrre un Manson, ovviamente, perché è facile che uno poi se ne va per quelle. E come ci sono stati casi più piccoli, minori, piccoli centri, dove però appunto abbiamo avuto dei personaggi che hanno dato vita, per esempio sulla sessualità, siccome lì c'era l'idea di stare tutti insieme, la comune, una libertà sessuale, la nudità come liberazione. Oggi appunto è molto difficile il confine, no? Certo, nel rapporto di quello che viene chiamata promiscuità, cioè peraltro dove non c'è la certezza di una coppia, per esempio, ecco. Quindi questa cosa ha avuto tutta una serie di risvolti positivi, ma ovviamente anche deliranti, perché appunto un mistico può approfittarsi e magari circondato da ancelle. E anche questo, diciamo, una storia abbastanza voglia, vecchia. Ecco. È chiaro che nel mondo moderno le cose così possono. E questo ci dice come mai sono successe quelle cose. Chiudo dicendo che chi non l'ha vista, magari sta su Netflix, peraltro, mi sembra. Cosa? Vago la stanno facendo adesso su Paramount TV. Paramount, ecco. Insomma, qualcuno che l'ha perduta la veda, perché io l'ho vista. Sono molto critico sulle serie, ma non per pregiudizio sulla serie in sé, ma per la modalità con cui viene diciamo ammannito il prodotto. Adesso il prodotto tira, e quindi sì, però appunto, siccome funziona, cioè adesso è il momento suo. Poi sono delle serie che funzionano, delle serie che, diciamo, a me e sono un percentuale che va quasi attorno al 90%, 95%, per la mia asticella del giudizio, che è molto alta. Ecco, questo però vi dà un po' la garanzia del fatto che, essendo così io duro e critico, se vi dico guardatela, perché effettivamente è molto molto molto interessante, peraltro molto rispettosa. Sì, assolutamente. Da ambo le parti della vicenda. Anche poi quello è stato uno shock che permane ancora adesso, esatto, negli Stati Uniti, per cui insomma si doveva e poteva affrontare soltanto con rigore, altrimenti. Tra l'altro sono passati 25 anni. 25 anni, mi sembra. O poco più, poco 93, meno. Mi pare, sì, più o meno del genere. Ci siamo lì. Quindi è vicina, ma sufficientemente, come dire, lontana per poter già fare un po'. 93, così, esatto, sì, giusto 25. 26, andiamo ormai, per i 26. Sì. Sì. Quindi insomma, recuperatela. Tornando a noi, ecco, tu hai detto bene nel resoconto del presenze, appunto, non. E questo è il dato importante proprio per quello che dicevi, perché la persona che ha dato la prima così lettura critica è stato Parolin, e il che quindi la CEI, questo perché la procedura è, essendo siamo in Italia, prima parla la CEI, che poi non è che parla perché è distaccata da Bergoglio, però per correttezza parla la CEI. E siccome la CEI, specialmente ora, dopo che sono stati compiuti dei passi da Bergoglio per il, diciamo, rispetto alla ridefinizione, come dire, dei rapporti tra CEI e Italia come paese e nella sua cultura globale, da tutti i punti di vista, e politica, e quindi il rapporto proprio con il governo e con le forze politiche, dal così ormai passato agli annali ruinismo, no? È tutt'altra cosa. Sono cose molto sottili quelle che si entrano in gioco, ma c'è una differenza e noi siamo qui per denunciarla. Quindi Parolin dice: attenzione, sulle cose di base siamo d'accordo, e su questo, diciamo, è abbastanza semplice arrivarci, perché se parliamo di matrimonio, se parliamo di salvaguardia della vita, se parliamo di demografia e di bambini e di quello bambini, quello è. A noi non piace, perché c'è l'approccio chiaramente sempre confessionale, però quello cattolico è noto e più o meno ha una linea che va avanti da alcune decine di secoli. E quindi, detto questo, quando Parolin dice questo, ma non la forma, dietro alla parola forma c'è un mondo infinito che adesso dobbiamo indagare. Dicevo, come tu hai ben detto, è proprio il vertice che poi dirà: sono d'accordo con Parolin, lo dice proprio, gli chiedono: sì, sono d'accordo con Parolin, perché lui è schietto, come giusto che sia un. Sì, sì, nel corso di una. Esatto, mentre tornava dal Marocco. Esatto, quella in volo, mi sembra in. Sì, sì, sì. In volo, diceva: sono d'accordo con Parolin. Giustamente lui neanche c'era, quindi dice: mi hanno detto, e quindi meglio ancora. Tra l'altro, lui stava in Marocco, anche questo, diciamo, potrebbe essere motivo di interesse. Per esempio, ecco. Quindi, insomma, cercando di dialogare, perché non è che è andato a distruggere il regno. No, poi il Marocco è un posto importante, è il più antico stato del Nord Africa musulmano, è l'unico stato dove c'è ancora una forte comunità ebraica, insomma ci sono tante cose interessanti. C'è Casablanca, ecco, voglio dire. E lui sempre lì. è abbastanza come fare a salvarsi da questo. Sì, sì, certo. Beh, ma insomma, non a caso, però no, che Casablanca sta lì e non sta da un'altra, esatto, parte. Capito, quindi non so, non è mai casuale. Bravissimo, esattamente questo ci aiuta a comprendere come il messaggio, il viaggio era indicativo di un pontificato che fa, lavora su un livello un po' più alto, no? Di questi beceri che si sono riuniti, che, come dire, non vengono additati in questo modo, ma non c'è bisogno, è chiaro. E allora che vuol dire questa presa di distanza di Parolin e l'accettazione di Bergoglio, che dice sono d'accordo, e cioè mi stanno bene, diciamo, i principali temi, che sono quelli che abbiamo ricordato, che è quasi banale perché sono i fondamenti, diciamo, della morale sociale, ecco, del cattolicesimo, ma appunto invece il tema è la forma. E qual è il problema della forma? Intanto proprio questa presenza di cristianesimi diversi, e quindi c'è il centro che convoca questo incontro in Italia, che chiaramente sono i cattolici tradizionalisti del nostro territorio, ma intorno, appunto, abbiamo detto, ci sono presenze che vengono dal cristianesimo riformato e anche ovviamente dall'ortodossia, il che, ripeto, non è un problema per la Chiesa, perché esiste un dibattito, specialmente dopo il Concilio Vaticano II, importante sul tentativo, anche se è sempre così un chiacchiericcio perché i temi profondi sono inconciliabili, ma insomma si cerca di dialogare piuttosto che scannarsi come a notte San Bartolomeo, che già insomma un grosso passo in avanti rispetto, è un grosso passo avanti tra appunto riformati e ortodossi, ricordiamo sono i due grandi scismi, quello così d'Oriente e quello d'Occidente. Grandi, perché diciamo, poi quelli piccoli ce ne stanno a bizzeffe, quelli proprio che hanno segnato e che tuttora diciamo marcano, dividono un po' in tre i grandi gruppi, proprio quando si fanno i calcoli su quanti sono i cristiani, no? I cristiani sono 2,5 miliardi, mi sembra, attualmente. Gli ultimi dati del 2016 sono stati rilevati dalle varie organizzazioni internazionali, ONU, OCSE, le stesse chiese, diciamo, fanno le loro considerazioni, e si stima appunto in questo numero, dentro i quali ovviamente c'è il miliardo circa, e uno, due, non è mai i cattolici, i circa 300 milioni 400 milioni pardon, di riformati, poi i 250 milioni di ortodossi, sempre grandi numeri, diciamo, certo, indicativi, e poi un'area di pentecostali che sono del Sud America, che sono anche lì 200-300 milioni, molto preoccupanti, specialmente per la Chiesa cattolica, che qui lì aveva. E anche per noi, perché certamente insomma, abbiamo visto quello che Brasile, quanto è problematico questo, lo scenario qui lì è veramente agghiacciante, ma ci torneremo. E quindi già questa presenza, che non è, ripeto, a monte problematica, perché il dialogo interreligioso è uno dei grandi temi del conciliari, che passa sotto l'idea di ecumenismo, cioè cercare di allargare con tutti i problemi che ci sono, che però non rievochiamo perché sono noti e intuibili, ovviamente, specie dal punto di vista cattolico, che essendo quello che dice siamo noi la vera interpretazione di Cristo, quindi gli altri in qualche modo nel divenire hanno modificato e hanno perduto dei pezzi, il percorso originario di cui loro rivendicano la continuità, siccome però questa è una rivendicazione che gli altri dicono ma te la sei sognata, che poi è anche vero, e viceversa anche quello che l'accusa, e questo apre un dibattito che insomma è inconciliabile, perché bisognerebbe rimettere in discussione dei presupposti che sono aleatori e messi così da teologia nel passato, devono per forza essere blindati, sennò crolla tutto. Certo. In quanto non c'è una verità vera, o meglio, dovrebbe tornare Gesù e dire: allora, un momento, io so. Questi sì, questi no, però. Avete fatto un pasticcio, guarda, ma purtroppo non è così. Più che altro perché già non era così quando il primo. È su questa interpretazione che è proprio successo il tutto. E dunque questo, come dire, ci rientra. Ma questi gruppi sono però ciascuno l'espressione più deleteria. Dei cristianesimi. Ma perché deleteria? Per motivi, dico, dal punto di vista non nostro critico, ma proprio religioso, quindi all'interno, perché politicizzati, ma apertamente politicizzati, fortemente legati a dei poteri politici e addirittura a delle figure che oggi sono anche personali, perché Trump, per esempio, in qualche modo è molto sensibile a questo scenario radicale di estrema destra, addirittura lui ha flirtato persino con il Ku Klux Klan, che comunque lo ricordiamo. Nasce come organizzazione religiosa. Religiosa, anche se io l'ho raccontato, loro attualmente dagli inizi del Novecento bruciano le croci di fuoco davanti magari alle case dei neri oppure dei libera vestiti incappucciati. Però quel rito non è un'invenzione loro. La croce di fuoco che brucia è un'invenzione di Griffith, David Ward Griffith, come un padre, dice il grande villaggio, all'esame per essere ammesso. Però perché sapeva la domanda. Ufficio dove verrà assunto come linguetta spugna per i francobolli, ma per passare l'esame deve conoscere il cinema americano e l'espressionismo tedesco. Gli viene detto perché il che lui non riesce a apprezzare Guido Baldo Maria Riccardelli. E quindi David Ward Griffith è come un padre per me, il padre del cinema americano. Ecco, è vero, il padre del cinema americano che fa si inventa questa esattamente, cosa esattamente scusatemi, Birth of a Nation, cioè Nascita della Nazione, nel film si inventa questa scena. E però è uno di quei casi in cui dalla fiction si passa alla realtà. La fiction diventa un rito reale. Questo è qualcosa di stiamo parlando anni 10, gli anni 15, diciamo proprio. E quindi così si hanno le croci che vedete nei film, che sono reali, nel senso rappresentano il reale. Però il Ku Klux Klan, che invece nasce in epoca così di guerra civile, un po' prima, quindi sulla questione nera, non aveva mai bruciato croci. Non aveva mai bruciato la croce come simbolo. Quindi, insomma, però insomma, quella è una croce. Ecco, quindi il flirtare con il Ku Klux Klan significa comunque avere dei rapporti con l'introduzione del cristianesimo, che, come dire, con Roma sicuramente non ha nulla a che vedere. Anche perché bruciavano anche le chiese cattoliche. Esatto, non solo, ma più che altro perché sempre il fuoco è un passato che Roma non vuole ricordare, perché non è che qui il fuoco non ha qualche problema. Bruciarono le croci, ci mancherebbe altro, anzi, quello era sacrilegio, ovviamente, e questo anche incide. Quella scena è sacrilega, specie per un cristiano, insomma, bruciare una croce, no? In realtà, ma appunto i roghi sono e quindi lasciamo stare il fuoco, insomma. Per cui la questione è che questo rapporto, dall'altra parte, una certa ortodossia dialoga strettamente con Putin, che certamente è una figura problematica dal punto di vista politico, sempre parlo per Roma. Ma anche i patriarcati, tra l'altro, sono in conflitto. Che sono, e poi sono legati direttamente ai loro poteri, certo, politici. Certo. E pensa all'Ucraina. L'Ucraina, ma anche la Moldavia era presente a Verona, insomma, è una relazione di tipo diverso. E questo è il primo dato. Quindi la politicizzazione di questi cristianesimi che si piegano a un disegno politico è già negativa. La forma è quindi questa, ancor più ovviamente il tono, cioè ecco che si rivendica il rifiuto dell'aborto, addirittura il divorzio, addirittura ovviamente l'omosessualità e tutto in generale, tutto quello che è l'idea di una relazione, diciamo, affettiva e anche di tipo biologico, come riproduttivo, qualunque siano i genitori, e come proviene, da qualunque parte possa provenire la nuova vita, parlo di fecondazioni in vitro o comunque insomma artificiali e non proprio biologicamente nell'accoppiamento classiche. Tutto questo apparato contemporaneo, che è medicalizzato anche ovviamente, ha sempre un po' turbato, piano piano ovviamente. Del resto turba noi, pensa loro, in qualche modo. Certamente, perché c'è chiaramente sempre l'accettazione di un diaframma, no? Che sembra rompersi, perché molti di noi occidentali, tranne chi ovviamente se ne occupa e quindi ha una visione della scienza un po' meno, come dire, infantile, rozza o banale, ha un po' il timore, perché ha invece al contrario, appunto, e su questo viene fatta leva proprio in modo sporco, l'idea che ci sia, come dire, nella parola naturale qualcosa di così metafisico, che non c'è. Ovviamente, perché altrimenti dovremmo ammettere tutto quello che le religioni dicono, quindi anima, sesti sensi che sono dovuti a chissà quale elemento che mette in comunicazione a prescindere da quello che sappiamo, e quindi le onde elettromagnetiche e tutto il resto che non ci sono. Per quanto riguarda il sesto senso, cioè il senso dell'empatia, no? Fortunatamente da 25 anni abbiamo la prova che non c'è nulla di metafisico, ma ci sono i neuroni specchio, quindi ce l'hanno anche, anzi sono stati trovati prima nelle scimmie, quindi è una roba che i primati, noi siamo primati molto evoluti, ma primati siamo, veniamo da 6 milioni di evoluzioni delle scimmie e da lì ci siamo separati e quindi abbiamo in comune questo modo sociale di relazionare. Ci sono delle fotografie in cui delle scimmiette fanno proprio le stesse, ripetono il volto che vedono in braccio al loro così educatore scienziato che cerca di capire che, in etologia comparata, come siamo simili, no? Mi ricordo che per esempio negli anni 30-40 Darwin, che era giovane, insomma, appunto trentenne credo, 30-40 dell'Ottocento, sì, perdon, era presente quando venne un orango femmina dal Borneo a Londra e la regina Vittoria, che comunque non era così stolta, no. Però non era quel quadretto che ci è stato consegnato, fu turbata perché disse c'è qualcosa di inquietante e di umano, ma inquietante, ma perché lo vedeva in una dimensione ancora pre-darwiniana, perché Darwin ancora non aveva, e però nonostante e però quello percepiva che c'era qui, e Darwin si ricorda di questa anche cosa, perché anche lui era turbato, certo, e lui però essendo non la regina Vittoria vuole capire che cosa sia veramente, e il dubbio c'era, e dire no siamo parenti, ma tantissimo, proprio parentissimo molto, e quindi ecco per cui questo discorso, poi si dice sei come una scimmia perché la scimmia imita, e fino a quell'epoca, ma veramente fino agli anni 50-60 era simile a noi ma stupida, diciamo, nel senso, sì, non era una versione che imitasse senza, invece non è che imitava senza, è che semplicemente era uno stadio meno sviluppato da un punto di vista della grande capacità emotiva che noi elaboriamo dovuta al linguaggio e a tutto il resto, ma in realtà i sentimenti sono profondissimi e molto simili, perché il dolore c'è una fotografia recente del 2011 mi sembra, in un parco africano, un grande parco africano significa nella foresta, è un parco semplicemente perché c'è un po' di protezione, ma è enorme, grande, tipo è roba grande come il Lazio, dove un guardiaparco molto bravo che fa anche delle fotografie ha visto una comunità di scimpanzé, di scimpanzé, con questa femmina disperata col cucciolo che gli era morto tra le braccia e per 3 giorni l'ha tenuto in braccio, con tutto il gruppo, i parenti, usiamo il termine chiaramente, che stava intorno, e qui una specie di rito funebre, specie nel senso era un rito funebre, ovviamente non nel modo in cui noi lo intendiamo così strutturato, ma era un rito funebre, cioè una condivisione del dolore. E quindi su questo, come la stessa cosa la facciamo noi, punto, perché quando vedete il funerale è quello nere, parlo dei funerali del sud con queste le prefiche, immaginiamo che c'erano fino agli anni 60, ancora i documentari mostrano, no? E questa scena e sono, se non parlano c'è il dolore delle grida, dei pianti, e ci sono suoni anche, ecco, questo ci dice che il sentimento ovviamente è molto profondo anche nei primati, e quindi il neurodespecchio ci dice che, come dire, il sesto senso che noi pensavamo essere trascendente invece è proprio un elemento fisiologico, insieme ovviamente al fatto che il sentimento non è solo cerebrale, cioè non attiene solo alla mente che risiede ormai nel cervello, punto, ma al corpo, che è l'interfaccia con cui il dolore in senso sia fisico, che io ti do un pugno, un occhio o appunto provi dolore, ti dico una brutta cosa, una brutta notizia, e tu provi un dolore, diciamo, morale, è dato dall'insieme del corpo immerso nell'ambiente, nel sentire, vivere l'esperienza, e l'elaborazione ovviamente razionale, e questo chiude la porta a delle trascendenze in senso definitivo. Però appunto tu dicevi abbiamo così paura della scienza perché sembra che metta in discussione qualcosa che è naturale, però ricordo sempre che oggi sul termine naturale c'è un ampio dibattito della scienza che dice che noi abbiamo smesso, come dire, di avere rapporti con le cose così, chiamiamole, naturali da quando abbiamo cominciato a manipolare il mondo, a modificarlo e quindi trasformare, quando mangiamo una mela oggi, quella mica è una mela naturale è una mela naturale nel senso che c'è un albero che cresce e la fa nascere, però quella in natura non c'era. I piselli, che sono antichissimi, le lenticchie sono i primi domesticati. Tant'è che le primogeniture si vendevano per un piatto di lenticchie, e qui la dice lunga. Non molti sanno perché si usa l'espressione, la usano però perché Esaù stava lì. Stava lì e quello era il piatto base. Diciamo che la stessa scena nell'Indocina si è avvenuta per un piatto di riso. Certo, così a ognuno il suo. Mentre dall'altra parte per un piatto di mais. Così è chiaro che cosa significa. E questo vale per le culture proprio all'origine, dove c'era il mais, il riso e le lenticchie. E poi frumento, insomma, un po' dappertutto. E quindi queste sono in natura, pensate, anche il pomodoro, per dire. Il pomodoro, la parola ancora riporta, che è molto recente, perché quando è arrivato da noi nel 600 era piccolo e giallo, infatti pomodoro, l'oro è giallo, non è rosso. No, poi, però adesso il pomodoro è rosso a forza di metterci mano, si è ingrandito, poi è diventato di mille forme. Pensate a quelli cosiddetti cuore di bue, che sono veramente, non hanno niente a che vedere con quelli che vedete disegnati da i navigatori che vedevano le piante, poi le hanno cominciato a portare, che erano proprio verdi, con questi pallini, tanti pallini piccoli gialli, e che all'inizio infatti erano anche ornamentali qua. Sì, nasce per, come... mentre già in Messico lo usavano per fare le salse, e questo ce la dice lunga, quindi il sugo è messicano, chiaro? Poi spagnolo, poi italiano. Poi noi siamo stati bravissimi. Anche per una questione geografica, ma che certo, quello man mano che arrivava verso... I messicani il pomodoro lo mangiano da prima che noi arrivassimo lì. Messicani... Intesi, sì. Poi lì c'erano abitanti dell'odierno Messico. Messico, esatto, quindi Maya, Aztechi e quelle popolazioni lì. Quindi il San Marzano, che è lungo, bello, i pomodorini dell'Etna, che sono meravigliosi, perché lì c'è una fertilità enorme, ai piedi dei vulcani spettacolare, diciamo, le arance anche che vengono da lì sono meravigliose, però tutta roba che non c'ha niente a che vedere, è il frutto di secoli di... così come l'arancina o arancino, a seconda che sia a Catania o a Palermo, ma questo lo lasciamo ai siciliani, no. Che è un piatto tipico siciliano, però c'è il riso in Sicilia ci arriva mille anni fa, portato dagli arabi, certo. Quindi, insieme a tante altre cose, esatto, che non è autoctono per niente, però è un, vai lì, è il piatto, questo è proprio il cibo da strada tipico, certamente, ma è nato nell'Ottocento peraltro come piatto borghese da piazza, da bar, questo la palla, pallettina buona che si mangiava al cucchiaio con dentro appunto i piselli sì. antichi o varianti che oggi sono anche un po' eccessivi perché c'è dentro di tutto. Nelle due forme, pera o tondo, questo per entrare. Beh, però ripeto, vedete il riso lì, che non c'entra niente con la Sicilia, lo zafferano, che è parte integrante perché è giallo, non ha nulla, viene portato anche lì dai mercanti arabi, e quindi un prodotto che viene da migranti e commercianti diventa autoctono, scannano, oh, arancino, pensando che sia così, come la melanzana e la parmigiana, che insomma si fa un po' ormai in tutta Italia, però la zona è il centro-sud, diciamo. Una massaia campana non accetterebbe mai l'idea che la melanzana è autoctona dell'Indonesia, che qui è arrivata molto dopo, e sempre con gli stessi del riso, perché la melanzana era un cosettino grande come un pollice, di un altro colore, poi è diventata striata, è grandissima, lavorata. Ecco, questa è manipolazione genetica, ma solo di lungo periodo, perché noi abbiamo selezionato dai e dai le forme, dai, i semi sono venute fuori ecco, questo per dire il concetto di naturale, proprio parlando così. La mucca, quella proprio bianca e nera che i bambini vedono, quella della Milka, sì, ma anche quella è viola, bianca. Quella è viola, vabbè, certo, perché loro si sono appropriati quella, la mucca carolina, perché ha una certa età, che c'era anche il gonfiabile, quella è bianca e nera, quella non esiste in natura. Esiste il bufalo a monte di tutto, che viene da e che poi nella domesticazione vengono fuori queste mucche, che non esistono in natura, sono proprio allevate, non la trovate in natura, non c'era prima la mucca. Anche perché in natura non sopravvivrebbero. No, non sopravvive, ha bisogno di stare appunto, se la pappano dopo tre secondi, che non corre. I lupi, non corre, sta lì, cioè non... è una che sta tranquilla, infatti è buona, no, la mucca è tranquilla. È un prodotto tra virgolette artificiale, così come lo può essere un organismo oggi geneticamente modificato. Il problema è, se io brevetto l'organismo occidente lo vendo, lì siamo in un altro ambito. Però la manipolazione per creare un prodotto migliore l'abbiamo sempre fatta. Ora siamo più bravi perché siamo capaci di lavorare dentro e la facciamo un po' più rapidamente, ma tocchiamo sempre un oggetto biologicamente che poi funziona e va in una certa direzione. Poi se io gli tolgo un piccolo tassello che però è quello che lo fa marcire, io però così do da mangiare, che ne so, a 3 miliardi di persone, il che è anche il problema principale dietro a cui sta tutto. Ripeto, il problema dell'industria e quindi del capitale come esiste, questo è ovvio che è un problema, ma non ha a che vedere con l'idea di natura, è l'economia che ruota intorno alla scienza, alla ricerca, all'applicazione del modo migliore per ottenere quello che prima, appunto, nel corso dei secoli, anzi dei millenni, abbiamo tutto lentissimamente, in modo così, direi intuitivo, empirico, dai contadini di tutto il pianeta. Ma stiamo parlando di 20.000 anni di così, evoluzione. Il cane non esiste in natura, ovviamente. Cioè, o meglio, esisteva un cane di un certo tipo che poi è stato un lupo. Esisteva un lupo che è il primo lupo, che il primo gruppo di lupi che a un certo punto si è avvicinato vicino a un gruppo di cacciatori raccoglitori, perché parliamo di 22.000 anni fa, si stima la domesticazione del lupo. Piano piano, piano piano, piano piano si sono selezionati dei lupi sempre meno aggressivi, sempre più gregari nel rapporto con l'uomo, fino a diventare assistenti nella caccia. Dopo, nel corso del portandoseli dietro, si sono trasformati adattandosi all'ambiente. Ma i cani di oggi, tutte queste specie che vedete, queste razze così, che vedete in giro, piccoli, grandi, sono l'80% sono il prodotto dell'Ottocento. In particolare gli inglesi hanno molto lavorato perché con gli allevamenti potevano sperimentare, e questo anche per i cavalli, che invece esistono in natura. Infatti, in un racconto di Jack London, che adesso non mi ricordo ovviamente, esatto, quello con dove gli uomini tornano allo stato primitivo, tutti i cani, diciamo le mille e una razza, si estinguono naturalmente, rimane soltanto il cane lupo, certo, e si ritorna allo stato iniziale. Già London, che, esatto, ricordiamo il nostro grande London, genio. Quindi l'idea di natura è un po' delicata da maneggiare, e è con essa il concetto di bio. Anche questo è piuttosto sui negozi, così che io andrei cauto. In quanto è tutto bio, cioè non è che non è che noi abbiamo una biologia inventata che non esiste, è proprio la biologia, solo che l'abbiamo cominciata a conoscere molto meglio. Però in fondo era un botanico anche, appunto, il contadino egiziano che stava lì, cioè lui era un botanico, ovviamente alle primissime armi, però sapeva che quel certo insettino era un problema, che mancando certe dosi d'acqua per un certo periodo era un problema, e questo era una conoscenza molto empirica, tramandata, però anche efficiente, perché se a un certo punto il Nilo è riuscito a sfamare qualche milione di persone, insomma, mi sembra, dunque, mi sembra i numeri, insomma, quindi molta gente per l'epoca. Parlo del massimo espansione dell'impero egiziano, insomma. Stiamo parlando di 4.000 anni fa, ecco, anni fa, per capirci. L'apice, niente di così vicino. E quindi questa idea, questo perché tutto questo discorso? Perché siccome il concetto di parola naturale, che è stato al centro del convegno di questi signori a Verona, riportandosi dietro l'accoppiamento famiglia naturale, e lì, diciamo, mi hanno mandato degli amici che mi conoscono dei manifestanti, c'erano quelli noi fuori che, come dire, si opponevano, i manifestanti, noi non i manifestanti, gli altri, proprio noi. Tra i manifestanti c'erano molti cartelli, e mi hanno mandato la fotografia di un cartello molto carino di una persona che ce lo esponeva, e c'era scritto: ogni volta che si parla di c'è un antropologo muore. Stragi, infatti, ormai ne sono rimasti pochissimi. Esatto, è molto vero, perché appunto noi sappiamo che la frase non ha proprio senso. E uno dirà: ma allora com'è possibile che una frase che non ha senso? Ma com'è possibile? Sono tante cose. Perché sono costruzioni dietro. Quindi questo è il problema. Ora, l'idea di famiglia naturale ce l'ha anche la Chiesa Cattolica, però ci lavora adattato da secoli, sicuramente da 500 anni nella forma moderna. E questi sono i gesuiti che, diciamo, hanno dovuto lavorarci, e Bergoglio è un gesuita molto raffinato e sa bene che le cose non si affrontano in questo modo. Quindi l'idea di naturale è, usiamo il termine, infame, no? Nel senso etimologico, perché è un amo brillante, che il pesciolino così lo vede, dice: ah, questo sembra una ciuchina, fa per me. Esatto, è proprio per me. E invece no, dietro c'è l'esca che ti aggancia, che è politica. Quindi questi si riunivano per fare cosa? Il progetto era proprio di, diciamo, passare per questa via profonda, che è una via, e qui si ricollega alla crisi della democrazia, e quindi come crisi della democrazia di cosa parliamo? Tanto tempo fa, il tema è molto, come dire, dibattuto, perché non c'è un punto d'origine, ma si comincia a parlare appunto di crisi della rappresentanza, di crisi dello Stato moderno, io direi dalla fine degli anni 70 agli anni 80, da un punto di vista filosofico alto. Poi cominciano a venire fuori anche i dati oggettivi, che le cose stanno proprio così. Noi per esempio abbiamo avuto lo scarto, quando ce l'abbiamo, nel 91 mi sembra, quando si fece il famoso referendum per il maggioritario, lì noi abbiamo ceduto, come dire, quel poco di democrazia, peraltro approvato, diciamo, a furor di popolo, nel senso, ora non ricordo le percentuali, ma insomma fu una cosa diciamo, se non all'unanimità quasi, sì, ecco, sì. Dei votanti che comunque erano e che erano, insomma, erano percentuali più alte del, sì, sì. Perché insomma si veniva da un po' l'euforia del crollo del sistema politico tradizionale dell'est, perché era crollato il muro proprio da poco, 90, due anni di, che è novembre 89, e quindi era in atto questa, quindi cioè, sembrava finita, e l'illusione che questa soluzione mettesse fine alla complessità dei governi che si formavano. È sempre il problema delle scorciatoie a questioni complesse. Esatto. Noi abbiamo quel vulnus, però da quel vulnus chiaramente le cose sono precipitate, e chi disse no, io votai no, ovviamente ero di quel 10 che era contrario, ma perché sapevo che era un'operazione oscena, in quanto era un inganno dell'elettorato, il quale, non avendo chiarissimo, perché qui era sofisticato il discorso politico, quello delle, specialmente una delle cose più sofisticate e perverse sono proprio le leggi elettorali. Perché si può ottenere tutto e ormai con l'illusione che si sia la democrazia. Che, come perché il problema è pensare che la tecnica possa fare le veci della politica, che è assurdo. Un metodo, diciamo, no? Che non è così, bisogna avere coscienza della politica per poi applicarla con delle procedure, ma le procedure sono al servizio puro, sono solo strumenti, e invece no, o almeno lo sono solo nelle mani del tecnico e dell'elite. Che è la stessa cosa che riguarda questa gente che si spaccia per anti-elitaria, ma sono i peggiori in assoluto, perché sono i veri elitari, anche perché loro prevedono una società elitista, forse anche etilista. A seconda dei casi. Qualcuno sì, qualcuno sicuramente. Forse sì. Elitista, ma certamente aristocratico-gerarchica, a tutti i livelli, perché è contenuta nelle varie, diciamo, declinazioni cristiane. In questo caso i fondamentalismi rivendicano chiaramente una gerarchia divina che ha creato dei ruoli, e ecco perché guardano a un passato in cui ognuno stava al posto suo. Questo è terrificante. Il volgo, come si diceva un tempo, guarda, non ha strumenti, segue perché è impaurito, intorno a sé vede frammenti che si sgretolano, no? delle cose che lo circondano, soprattutto economicamente, e mettergli paura, specialmente in Italia, dove, come dire, uno dei motti centrali della nostra lezione culturale è tengo famiglia, quindi che è una butata apparentemente, ma in realtà c'è il municipalismo, cioè il grande problema identitario dei gruppi sociali italiani. A chi fai riferimento? Insomma, esattamente. E quindi noi abbiamo un grosso problema civile, in senso proprio di cultura della comunità ampia, fino a diventare quella che doveva essere un po' lo Stato unitario, per magari poi evolvere in qualche altra cosa, perché lo Stato non è che la forma ultima delle società, è una forma di transizione molto lontana nel tempo, è la forma del momento, e che comunque tenta di trovare le soluzioni nella polis e nel fare politica, vivere politicamente i bisogni, i diritti, il senso di giustizia e tutto quello che ne consegue. Ecco, tutto questo dentro a quel pacchetto di organizzatori offriva delle soluzioni semplici, decomplessificando tutto quello che sentite. Io parlo molto lungo perché tutte queste cose sono complesse, parliamo sempre di migliaia di anni di storia umana, dentro ciascun individuo, appunto la mente, il rapporto che c'è tra tutti i singoli con le loro relazioni emotive, con gli intimi, sociali e quindi poi l'immaginario culturale che può variare notevolmente già in un paese tutto sommato piccolo come l'Italia, da nord a sud, ma anche da città a campagna, benché la distanza oggi è ridotta, c'è comunque si mantiene una realtà, perché anche uno che vive oggi con tutte le tecnologie in un piccolo centro dell'Umbria, in ogni caso, per esempio, da un certo punto di vista vive in, noi in alcuni casi diciamo meglio, ma l'osservatore, lo scienziato umano non può dire meglio. Però è una dimensione differente. È molto diverso, penso soltanto all'uscire di casa, ad andare a fare delle cose, comprarle, muoversi in degli spazi in cui puoi fare tutto a piedi, per esempio, no? Mentre Roma, per dire, come qualunque grande metropoli, no, quindi l'uso dell'automobile e quindi tutto quello che comporta, diciamo che si sta meglio nel piccolo centro, perché questo ormai siamo tutti d'accordo, è causa di enorme stress, cioè stare fermo nel traffico ore per quanto c'è la radio, insomma non è piacevolissimo, e quindi questo crea, noi approfittiamo di questo, e tanto è vero che oggi il benessere, quello del ricco, no? Come poteva essere un faraone o qualunque altro ricchissimo, o sta al centro in un'oasi meravigliosa di una grande metropoli, oppure fuori, no? Non troppo lontano, ma le periferie, che sono ormai, assediano il centro e sono immense, sono luoghi, sono diremmo quasi non luoghi, anche se il termine ormai è un po' anche questo, cioè un po' come la società liquida, esatto, ecco. Un po' consunto, però in questo caso sono non luoghi in quanto non privati di una, come dire, identità antropologica, no? Certamente, che ne so, il tuscolano, per fare un riferimento a noi, è un ha dei tratti di non luogo, anche se in realtà non è puramente un non luogo astratto come quello che è il tempio del consumo secondo Augé, e cioè appunto il mall o l'aeroporto, quello che è, però in realtà anche il grande quartiere dei palazzinari romani degli anni 60 è un luogo, perché è violenza, no, sul territorio di chi edifica, non dialogando con chi prima invece la casa se la faceva da solo, ma molto molto prima, capito? E quindi se noi osserviamo un villaggio di Papua Nuova Guinea o dell'Amazzonia, dove ci sono 30 capanne e 250 persone, quelli sono, è tutto auto-organizzato, lo fanno, intanto è così da tipo 20.000 anni. Ma devi stare insieme per forza di cose. Si conoscono tutti e funzionano, tutti collaborano a costruirlo, tutti sanno tutto, come farlo, no? Le gare, le cose, i ragazzini aiutano, perché ci sono popolazioni che vivono a 20-30 metri da terra, anche perché sotto c'è il giaguaro. Esatto, e quindi fanno queste cose, diciamo, semi, no? Bellissime, peraltro. Se pensate all'uccello, non mi ricordo che tessitore, però c'è un nome prima, non mi ricordo, quello che fa questi nidi bellissimi. Ah sì, c'è quello, un nome sì, che è un architetto che va a prendere tutti i pezzettini così. Noi che abbiamo molto in comune ancora con tutto questo, il mondo animale, oggi lo facciamo in quelle capanne bellissime, con delle modalità direi tra virgolette architettoniche di edilizia lignea e fatta di piante, liane, palmizi, foglie, il banano in alcune zone, il banano è una foglia meravigliosa, è impermeabile, no? Cioè, no? Ti copre. Capito. Certo, se io lo uso in 250 persone, il banano va bene. Per farci 3 milioni di persone inizia a essere un po' più complicato. E quindi magari abbiamo dei tessuti. Devi trovare dei succedanei. Esatto, o altre cose, quindi va bene così. Quindi questa, diciamo, diciamo dimensione del naturale del è da tenere vivere. Scusate, nominare sempre con cautela, e particolarmente appunto il discorso della famiglia naturale, dicevamo, e quindi di questa dimensione che narra di una mitologia semplificata dei rapporti umani, e che non è possibile proprio perché appunto abbiamo una complessità oggettiva del mondo in cui siamo. Pensate semplicemente che mentre c'era Verona, in tutto il mondo occidentale che vive, perfino loro hanno i pad, sì, ce l'hanno, twittavano. Oh, pure. Capito? C'è un contrasto in tutto questo. Che vuol dire medio, che faccia, cioè, come può esserci un medioevo di quei gli elementi tradizionali nello strutturare una società, con però delle tecnologie di questo tipo che sono quanto di più lontano da un medioevo dove l'80-90% della popolazione era analfabeta, quindi proprio il problema non si poneva. Esatto, quindi pensate, quindi dove il conoscenza era, e questo ecco perché quindi il paradigma gerarchico può anche avere un senso nel passato, perché è un prodotto di transizione. Oggi no, perché l'accesso alla conoscenza è problematico, nel senso che cosa succede? Siccome già nel 500 la Chiesa si è posta il problema, in caso cattolico, della conoscenza, ha scoperto che la diffusione di libri era pericolosa. Certo. Infatti ha costruito proprio nel 1530 l'indice dei libri proibiti, che ricordo Paolo VI abolisce nel maggio del 1966 ufficialmente. Aveva retto per 300 anni buoni, comunque. 4. Sì, no, nel senso. Sì, come effettivamente, poi ufficialmente. Già quando lo dicono, cominciano ad esserci stampatori veneziani, per esempio, che non sono proprio rispettosi, infatti cominciano a circolare libri. Poi i veneziani, figurarsi. Gli importava. Ecco, quindi che vuol dire? Vuol dire che inevitabilmente, se tu hai una società dove c'è tutto il mondo alternativo a quello tuo, che è circolo ed è accessibile in tempo zero, dove vai? Che censura fai? Abbiamo il tentativo di una censura, che è quella cinese, che tenta di chiudere la internet loro con quella fuori, ma con grossi problemi. È complicato anche lì. E quindi si vede bene che questa gente è molto pericolosa. Ma ancora di più il tema politico è questo, cioè questi radicali che vogliono politicizzare in chiave identitaria, si parla di sovranismo, nazionalismo, e quindi diciamo è molto chiaro dove si va a parare. Questo strumento religioso serve, come ho detto, da base per dare senso a quello che era la crisi della democrazia che stavamo dicendo, e cioè la crisi dei grandi partiti di massa, la crisi di destra-sinistra, la partecipazione, cioè del dove stare individuo, società, diritti, welfare, libertà, mercato, tutti i grandi temi che dovessi discussi dentro i percorsi politici democratici. L'idea è di bypassare tutto questo e dire vedete, l'alveo di fondamento, andando al di là di destra e sinistra, è questo, e noi ci inventiamo questo modello, appunto, che è né destra né sinistra, ma che è vero perché viene da, perché è naturale, è naturale. Qui siamo alla follia, ma questo lo sa anche Bergoglio, Parolin, ma soprattutto Bergoglio, perché Bergoglio è un gesuita, i gesuiti sono dei raffinati, i più raffinati missionari. Intanto si sono inventati loro la missiologia moderna, e che vuol dire? Vuol dire che hanno amplificato l'attitudine evangelica in una dimensione anche scientifica, perché loro sono anche parallelamente i fondatori dell'etnologia, dell'etnografia e dell'antropologia, in una chiave chiaramente confessionale, totalmente confessionale, ma pongono dei problemi che sono oggettivi. Quando c'è la disputa su se hanno l'anima o no i nativi, che dura 30 anni, chiaramente non ne vengono a capo, perché il punto di partenza è aleatorio, però devono discutere di questo, e questo è un problema, e soprattutto perché questi non si sapeva che c'erano, non si sapeva che c'era il continente, e quindi tutto il rapporto con questa dimensione missionaria ha a che fare con la geografia, con le scoperte, con i viaggi, con la cartografia e anche con la documentazione delle lingue, delle culture, degli oro oggetti che vengono distrutti come idolatri, ma anche conservati in parte, portati, qui c'è il museo etnografico, esatto. E quindi, no? E poi la etnografia o l'etnologia e l'etnologia moderne invece cercheranno di liberarsi nell'Ottocento dallo statuto religioso e tentare di dare delle spiegazioni, dico, scientifiche, nel senso razionali, che tengano insieme le scoperte che si fanno, e tentando di interpretare al di fuori di dimensioni morali o trascendenti. Quindi fino a Lévi-Strauss, che chiaramente sarà poi il massimo, diciamo, motore tra gli anni 40-50 della nuova ridefinizione di questo grande paradigma culturale dentro, insieme con lui tanti altri personaggi contemporanei suoi, e poi anche più tardi, anche se però lui ha vissuto a 100 anni, quindi è morto da poco, ha attraversato tutto il Novecento. Tutto quanto se l'è fatto, sì. Quindi, e che vuol dire questo? Vuol dire che questi vengono accusati di fare politica, di usare questi strumenti per fare politica, per costruire identitarismi localistici. Nel cattolicesimo questo è negativissimo, l'abbiamo detto e ci torneremo venerdì prossimo per poi fare il passo successivo, ma soprattutto è uno scontro frontale. La Chiesa questo cattolica non lo vuole, ma soprattutto non lo vuole da dopo il Concilio Vaticano II, perché il Concilio Vaticano II prende atto dei mutamenti e capisce che si perde il controllo della società quando si impone la religione. Oggi tu non la puoi imporre, o meglio, la puoi imporre in modo trasversale, sì, ecco, e di qui c'è il controllo della scuola. Quello è il nodo centrale. Non andare con la spada a dire o ti battezzi o ti taglio la testa. Faccio una legge che la rispettano anche i non cattolici. Certo. Cioè dire basta divorzio. È chiaro che è una cosa pazzesca, non lo dirà mai né Bergoglio né Parolin. E cioè andiamo allo scontro facendo una legge, questi potrebbero pure votare ammesso e non concesso, in realtà no, perché non hanno i numeri, nel senso che però teoricamente li potrebbero dire basta, aboliamo e mettere i bastoni tra le ruote tale che non c'è più il divorzio. Il risultato sarebbe un'insurrezione, perché la società non è adatta. Ma tra gli italiani presenti di divorziati con più figli more uxorio, a cominciare dal ministro degli interni e dalla signora della Garbatella, che convive more uxorio e che però parla di famiglia, di diritti e di, come è stato fatto notare, e non a caso c'è un piccolo episodio, io non amo molto perché mi fanno un po' ribrezzo questo tipo di dibattiti così a basso livello, però a volte vengono fuori, ecco, è proprio una donna rara, perché non sono tantissime a quel livello di gestione dei talk show, come poi può vedere chiunque, specie serali, non a caso sono tutte di giorno perché sono da Massaia a Massaia mattina e pomeriggio, ma insomma la Gruber invece va in onda alle 8:40. Che ha fatto notare questa cosa? Che ha fatto notare, scusi, ma lei, e la signora ha detto che si faccia gli affari suoi, capito? Che è, come dire, il re è nudo. Sì, no? Anche perché il senso di tutta, cioè, Verona è che ci si fa gli affari degli altri. Tu non glielo devi chiedere, certo, pubblicamente, così la Chiesa diceva al Vescovo, non mi devi chiedere, come ti permetti a me? Infatti il Vescovo non parla perché tutti inchini, punto, non è che gli dici, senta, ma lei, io so che sei ingroppato, cioè in questo mondo e quell'altro, il cardinale, parlo della Roma 500. Sì, figurati, insomma. Poi di notte qualcuno metteva un cartello, anche perché quello poi ti tagliava la testa, Pasquino, esatto, e però era una voce anonima che diceva che Innocenzo decimo, insomma, che mi sembra, mi ricordo, però il senso è che quello di, insomma, ti taglia la testa, cardinale, l'amante di 17 anni, insomma, lo sapeva tutta Roma. Che non era neanche consacrato, questo l'aveva fatto, capito? Sì, e ce ne sarebbe a bezzeffe, ecco. Però ecco, ufficialmente non chiede, quindi la Gruber gli chiede e dice, scusi, ma lei si faccia gli affari suoi, ecco, è questo, quanto saranno 5 secondi di televisione, che però sono, come dire, mille anni di culture, e una, la nostra è quella che loro gabbellano, che si scontra e viene fuori che quella persona, dire ipocrita è nulla. E allora viene fuori, tra l'altro, proprio il Vangelo, perché uno dei momenti più belli dal punto di vista letterario, no, di narrazione, quando Gesù, il Gesù storico, così non sappiamo poi le parole precise, ma è molto probabile che quel discorso lo deve aver fatto, perché in qualche modo è molto plausibile, no? Realistico. Certo, perché attacca i farisei, quindi è molto plausibile. I farisei e ipocriti. Esattamente, e attacca i farisei e tutti quelli che sono ebrei come lui, ma lui dice io sono ebreo, voi siete ciarlatani, perché ci avete appunto il sepolcro in frecchia ed è dentro l'ira di Dio, oppure l'elenco è vario, cioè bicchieri fuori puliti, dentro sterci, tutte metafore semplici per 2000 anni fa, per dire che la tua anima è schifosa e però tu vuoi fuori e predichi bene e razzoli male. E questa cosa quindi non è una novità. La Gruber, che non è ignorante, ha detto a questa sedicente cattolica integralista e che parla di famiglia, senza nominarlo, sei un sepolcro imbiancato, e non lo dico io ma il tuo Dio. Ora, Bergoglio è molto interessante perché la risalita al Vangelo comporta questo. Poi è chiaro che uno si pilucca le parole, però il senso però ultimo, le 10 fondamentali quelle sono. Allora, sì sì, no no, il resto viene dal maligno. Che vuol dire? Devi dire la verità. Certo. Valla a dire un date po' a Cesare dico. Quel che è di Cesare, pure Dio quello. Quel che è di ecco, Dio. Sì, quella è molto dibattuta. Però anche là le parole sono chiare. Più facile che un cammello è ancora più chiara. Diciamo, ci sono dei fondamentali. Si sepolchi chiarissima. Quindi lui giustamente, e questo ha fatto arrabbiare proprio questa gente qui, ecco perché la destra radicale lo odia, è perché gli fa crollare tutto quello che da dopo Gesù, il poverino Yeshua, e povero anche di fatto, sì certo, dopo è stato costruito per tenere insieme una baracca che nulla aveva a che vedere con le origini, le quali, l'abbiamo detto centinaia di volte nelle nostre puntate, andava in un'altra direzione. Assolutamente. È per questo quindi che Bergoglio dice: io sono chiaramente d'accordo con i contenuti, ma mica perché i contenuti sono i nostri, tra l'altro. Non è quello il problema è la modalità. Così no, perché questo vuol dire prendere in giro le persone, andare a uno scontro politico, usare, come si fa, tu sei uno storico e sai bene, l'uso politico della storia, ecco, l'uso religioso l'uso politico della religione è la stessa identica cosa. Paro. E questo non lo vuole lo storico serio come il cattolico serio, perché dobbiamo sempre considerare che c'è un cattolico serio e lo dobbiamo rispettare se è serio, e se è serio vuol dire che rispetta il suo libro e quei punti fondamentali di cui parlavamo prima. Possiamo pure discutere che è un apparato trascendente, però molto dopo, certo. È un tema molto più alto questo, molto più alto. Qui siamo alle bassezze, questi sono proprio piccoli criminali, nel senso che è un crimine culturale quello che viene, lo dico perché sto interpretando proprio le parole del Vescovo di Roma, che su questo è attento. Lui non può non dire che non è d'accordo sulla salvaguardia della vita ed è contro l'aborto. Non possiamo pretendere che Bergoglio domattina dice: beh ragazzi, ci avete ragione, sono stato illuminato. Lui può solo dire e ammettere che i cattolici non devono abortire, e mi sta anche bene, però a me non me lo puoi dire, è una scelta, una libera di stato laico. Certo. Perché se no tu contraddici questo, loro ancora soffrono molto. È un grosso problema, però un pochino il Concilio Vaticano ha dovuto fare conto di tutto questo, ricordiamoci appunto che, per dire, l'abbiamo detto, De Gasperi, quando qui a Roma si voleva fare l'alleanza con le MSI, ma parliamo delle elezioni del 52, mi pare. Sì. Se non ricordo male. Sì, santità. No? Anche no. Esattamente. Pacelli gli ha detto, e lui dice: io come cattolico obbedisco, ma come presidente del Consiglio no. De Gasperi. Non un anarco insurrezionista. No, esatto, ecco. Capito? Non malatesta. No, per nulla. Ostirne. No, insomma, De Gasperi. Ecco, quindi, siccome questo segnale è inevitabile e quello era onesto, io dico: ma magari ricominciassimo da lì. Sarebbe un punto di partenza. Migliore. Questi sono beceri, pericolosi. E lo ha detto. Il risultato è stato nefasto, perché tutto il progetto è andato a gamba all'aria, perché questa unità per creare questo fronte internazionale politico, per poi andare, perché questa era una cosa da campagna elettorale per le europee, certo. Non ha funzionato. Tra l'altro ho letto l'altro giorno che appunto c'è stata una riunione, c'è questo in atto ora, ma non va Orban, no, il quale no. Giustamente dice: col piffero, questi certo. Mi danno 30 miliardi l'anno dell'Unione Europea, adesso io rientro nel PP, do filo spinati l'ho messi. Due scemenze, però, le dico basta, mi vado a bruciare fino alla Le Pen, che è la Le Pen, sì, però siccome quella ha litigato col padre, certo. Il padre sta sulle posizioni di questi, lei no, perché non è del tutto stupida, uno la critica sicuramente tutto il nostro disprezzo, però non possiamo sempre istupidire l'avversario, è troppo facile, e dobbiamo rispettare se ha una sua, come dire, anche visione un po' meno rozza da ecco, quindi questi rozzi sono stati quello che avete visto sono una manifestazione esatto di che è una sconfitta. Bene, va bene, finiamo qui. Benissimo, 19:38, ci risentiamo ovviamente l'ora para 38:38, ci risentiamo venerdì prossimo, e come sempre fra poco su ondarossa.info la puntata di oggi, sì, 12. 12 di e riprenderemo qui con dibattito politico in corso. In corso, sì.